mattina c'è stato un picchetto ai cancelli della Granarolo, che è l'azienda da cui da più di 2 mesi c'è in corso una vertenza dura. Stamattina è stata una giornata di picchetto importante, perché è uscita da un'assemblea che si è costruita collettivamente il 16 giugno e che ha lanciato una serie di tappi di lotta, campagne boicottaggio della Granarolo, un nuovo sciopero della logistica nazionale il 5 luglio e appunto il picchetto di stamattina. Un picchetto risposta all'accordo che il prefetto insieme alla Lega dei Cooperativi, Granarolo e alla CGIL e CISL avevano proposto ai lavoratori, a 41 lavoratori licenziati, che sostanzialmente era una cassa integrazione per qualche mese e poi un tutti a casa senza nessuna assunzione. E questo tipo di proposta, una proposta truffa che andava a chiudere, diciamo, a cercare di mobilitare la lotta. La determinazione dei lavoratori è stata quella di rifiutare l'accordo, che andava a calpestare la dignità, perché in ballo c'è proprio la questione della riassunzione su licenziamenti legittimi fatti proprio perché questi 41 lavoratori hanno alzato la testa, hanno rivendicato il loro diritto all'interno di un'azienda come la Granarolo, che è una delle aziende che in Emilia-Romagna e a Bologna è intrisa all'interno del sistema delle cooperative, dello sfruttamento delle cooperative rosse, del sistema partitico del PD e tutta quella compagine concertativa della CGIL, eccetera. Quindi una vertenza dura, un rifiuto dell'accordo proposto dal prefetto e una risposta immediata, che è stata quella della convocazione del picchetto di lotta stamattina. Il picchetto di lotta appunto di stamattina è stato un picchetto molto numeroso, perché non c'erano solo i lavoratori della Granarolo, ma appunto la solidarietà da tutte le altre aziende della logistica bolognese, SDA, TNT, DHL, eccetera. Quindi un picchetto di più di 200 persone solidali delle realtà di movimento, centri sociali, noi come Cresce. Quindi è stato un picchetto che ha come dire, rimesso in moto quella composizione sociale e politica che è quella che si sta costruendo e che si è costruita e formata nelle lotte degli ultimi mesi. Un picchetto che si era deciso appunto di fare determinate e dure, nel senso che nulla doveva entrare in termini di camion, di merci, e niente doveva uscire, per far male veramente al padrone, chiudere tutti gli ingressi e soprattutto far vedere la determinazione e la rabbia che c'è su questo attacco che è stato fatto ai lavoratori a Granarolo. La risposta è stata appunto in numeri molto buona, anche in determinazione, e anche la controparte, questa volta Granarolo, Questura e Prefettura, hanno deciso la linea che è stata quella di non andare a riaprire un tavolo di trattative per riassumere i lavori, eccetera, ma è stata quella appunto di andare a blindare la Granarolo, mandando la Scheller e mandando la polizia a cercare di sgombrare il picchetto. Il problema è che non hanno fatto i conti con la determinazione, la forza e il coraggio di chi quel picchetto l'ha animato dalle 3 del mattino fino a quando non è arrivata la Scheller intorno alle 9, 9 e mezza. Una determinazione di rigidità che imponeva appunto il no, il rifiuto all'accordo, ma anche un no all'essere cacciati dalla polizia, come è stato nel tentativo. La polizia nazionale è tanto sommossa, si è schierata, ha cercato di mandare via il picchetto, tutti a sedere determinati a non farsi spostare, sono partiti con gli spintolamenti, sono partiti con le cariche, siamo rimasti là, abbiamo risposto, abbiamo continuato a fare blocco davanti ai cancelli, spostandoci strada e riuscendo a bloccare poi tutto i cancelli principali, continuando a bloccare i camion nonostante ci sia stata anche un'altra successiva carica della polizia. Questa è la dimostrazione che quando la rigidità della composizione sociale mette dei paletti ben rigidi, dei no ben rigidi rispetto a quelle che sono le logiche, per esempio concertative, le logiche del sacrificio, le logiche dell'interesse comune, no? Che oggi sono un caposaldo, no? della tenuta del sistema politico italiano, come il governo della larga intesa, il governo tecnico, la crisi, e quindi tutti dobbiamo pagare sacrifici, eccetera, eccetera. Questo no rigido anche oggi si è il posto ai cancelli di fronte ai cancelli da Granarolo, quindi l'importante momento di lotta del picchetto, di resistenza, che è anche un segnale forte di rilancio immediato nella lotta, e che si è dato anche nell'assemblea successiva che c'è stata alla fine del picchetto, quando abbiamo deciso collettivamente di sciogliere il picchetto, non per andare via, ma per rilanciare su una settimana importante di lotta. Ci sarà infatti il sabato una giornata nazionale di boicottaggio della Granarolo, quindi qualsiasi realtà solidale in qualsiasi città italiana e non solo vuole dare un contributo di lotta e di boicottaggio contro la Granarolo, quel giorno la riflessione, la proposta che è nata dall'assemblea è stata proprio quella di far sì che sabato diventi una giornata nazionale di boicottaggio. Anche Bologna naturalmente risponderà e risponderà con una giornata forte. Se si riesce a far sì che diventi un elemento moltiplicatore di iniziative in Italia, è importante, perché appunto la Granarolo, specialmente in questa fase in cui si costruisce un'immagine di azienda rispettosa dei diritti dei lavoratori, della qualità del prodotto, e tutte queste bagianate qua, andandosi poi a quotare in borsa, significa incominciare a farli male, a farli pagare anche un prezzo non tanto sul livello dell'immagine, ma a farli pagare un prezzo rispetto a questa costruzione, a questa costruzione mediatica. Questo è stato il rilancio che è uscito dall'assemblea dopo il picchetto oggi, e lo sciopero del 5 luglio. Ribadito come lo sciopero del 5 luglio, specialmente dopo stamattina, acquista una centralità. La centralità che è quella nuovamente di far sì che a livello nazionale, a livello di situazioni in lotta, si possa riuscire a ricostruire quella composizione sociale fatta di operai in lotta, di operai in lotta, di mondo solidale, di compagni e compagni, di centri sociali, di collettivi che riescano appunto insieme a riconoscere il fatto che questa lotta sia una lotta che riesca a riconoscersi come comuni nei percorsi appunto di attacco che in questa fase politica appunto di scaricamento verso il basso della crisi, operai della logistica, studenti solidali, precari e disoccupati, riuscire comunque a rompere questa differenziazione spesso sociologica in cui a volte anche come movimento rischiamo di imbrigliarci su queste differenze, riuscire a ricomporle invece in termini di lotta. Quindi credo che stamattina la valutazione è sicuramente positiva in questa giornata di lotta e il rilancio che c'è stato.